Italia in controluce. Buongiorno e buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la nuova puntata di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che esplora nell'Italia della cronaca, dello spettacolo, della cultura e di molto altro ancora. La puntata odierna di Italia in controluce è interamente dedicata a Tabula Rasa, un festival della società civile calabrese che ospita spettacoli, dibattiti, testimonianze. Parte domani sera a Reggio Calabria. Il programma si protrae per tutto luglio. Giacomo Segantini ha intervistato Raffaele Mortelliti, uno degli organizzatori. Di che cosa bisogna fare Tabula Rasa? Lei sta parlando con una persona che vive a Reggio Calabria. La scommessa è usare una terra così di frontiera come modello per riprendere delle tematiche che sono care al paese e far sì che proprio in un momento di distanza dal paese la Calabria possa avere un momento di centralità sulle tematiche. Abbiamo deciso di parlare di scandalo. Quale tipo di scandalo? Abbiamo veramente deciso di parlare di tutto ciò che può essere attinente al concetto di scandalo o al suo opposto. Siamo figli di una società che ha i media al centro e che fa dei media un modello di insegnamento e di guida. Abbiamo deciso proprio di utilizzare il tema vario dello scandalo per poter dare centralità a quelle che sono le tematiche che ci circondano, ma senza delle quali probabilmente la nostra esistenza sarebbe anche forse un po' più pura. Che cosa prevede il programma? Il programma è un bel treno lungo di appuntamenti per tutto il mese di luglio, saranno 20 serate con quasi 65 ospiti ed è una sorta di altalena tra giornalisti internazionali, giornalisti nazionali, magistrati, un po' di spettacolo. Perciò per 20 giorni cercheremo di fare una carambola, un'altalena tra le varie professionalità che sono luminari nelle tematiche vicine al concetto di scandalo. Ho visto che avete invitato la stampa straniera. Perché? L'idea di dare possibilità a giornalisti stranieri di esprimersi in Italia, in Calabria, a Reggio Calabria, lontano dai centri decisionali delle tematiche, perciò dar loro un momento di estrema trasparenza sul luogo, sui luoghi e anche sulla possibilità di esprimersi, ci sembra un momento di crescita definitiva, cioè un momento in cui si può dare anche un punto di vista definitivo diverso sulle tematiche che ci accompagnano di giorno in giorno su tutti i giornali. Nel programma c'è una cosa curiosa, si dice: non vogliamo ringraziare coloro che hanno cercato di ostacolare Tabula Rasa. Chi sono? Le nostre terre sono spesso vittima di un modello di mentalità che tende ad opprimere qualsiasi cosa rappresenti una novità o comunque un'apertura alla coscienza. Le armi non sono le armi solite, non sono soltanto le intimidazioni tipiche comunque della nostra parte che vietano la possibilità di fare alcune cose. Ci sono delle modalità abbastanza trasversali, delle cose non dette, delle occasioni non riuscite che fanno più danni alla crescita di qualsiasi progetto di quanto possa fare un eclatante gesto di intimidazione. Il Festival Tabula Rasa è solo una delle attività di un gruppo di persone che realizza giornalismo dal basso in Calabria attraverso un portale chiamato Stril.it. Il direttore responsabile è Giusva Branca. Chi c'è dietro la manifestazione? Questa manifestazione è organizzata dall'associazione Urba, che è un'associazione culturale della città, senza nessun tipo di riferimento né politico né economico alle spalle. Questa associazione edita Strill.it, che è un quotidiano online calabrese che fa 35.000 lettori al giorno, con una parte dei proventi di Strill, essendo associazione culturale, tra l'altro che non ha fine di lucro, non può averne, organizziamo Tabula Rasa. L'abbiamo fatto l'anno scorso per 3 giorni, è stato un successone, quest'anno l'abbiamo fatta in 3 settimane. Parliamo di Strill.it, che cos'ha di diverso da un qualunque altro quotidiano online? Ma è di diverso rispetto a moltissimi altri quotidiani online, non solo calabresi, ha assolutamente il tempo reale, cioè la voglia di dare in tempo reale 100-120 lanci rispetto a tutto ciò che accade in Calabria è importante. Minuto per minuto siamo seguiti da 130 paesi del mondo diversi, perché i calabresi sono ovunque, e in più ha questo momento partecipativo rispetto ai lettori, con grandissimo spazio alle tematiche proposte dai lettori, che spesso guadagnano la prima pagina, perché noi non abbiamo problemi a dare l'apertura a una lettera nel momento in cui l'argomento ci sembra interessante. Cioè, ecco, noi privilegiamo la predica e non il pulpito. Esistiamo da 5 anni e adesso siamo di gran lunga il più letto quotidiano online direi della regione, ma sicuramente probabilmente anche dell'intero meridione. Quindi ha raggiunto il suo scopo, ha raggiunto la sua missione? Fino al momento abbondantemente sì, anche in anticipo sulle previsioni, sui tempi che ci eravamo dati, anche perché in un momento così difficile, in una terra così difficile come la Calabria, chiudere anche il conto economico non è un gioco da ragazzi. Noi ci siamo riusciti con grande entusiasmo, anche perché con noi lavorano una dozzina di giovanissimi redattori, alcuni giornalisti, altri comunque in via di raggiungimento del traguardo, che ci danno l'infa, sono presenti sul territorio. Quindi informazione dal basso, perché è necessaria secondo lei? Ma l'informazione dal basso è necessaria dal mio punto di vista per quanto riguarda gli spunti, perché è pretenzioso che una testata, qualunque sia, anche la più grossa, possa pensare di essere dappertutto. È chiaro che gli spunti vengono offerti da coloro che ne hanno contezza anche per ragioni personali. Allora, come deve comportarsi secondo noi la testata? Arriva lo spunto dal basso, magari viene pubblicato, oppure magari spunto per interessarsi. A quel punto tocca a noi fare giornalisti. Tutto qua, sono dei sensori, non c'è nessun miglior sensore di chi quotidianamente ha a che fare con le cose su cui poi noi pretendiamo di scrivere. Ci vuole grande umiltà, secondo me. È vero che si parla alla gente, ma proprio dalla gente devono arrivare degli elementi per poterli poi approfondire, altrimenti si è presuntuosi. Quindi un diverso modello di fonti, possiamo dire, a livello giornalistico? Sì, mi piace molto questo, un diverso modello di fonti. Poi ovviamente il passo successivo sta nel sviluppare quanto arriva dalle fonti con professionalità, autorevolezza, incisività, al meglio, insomma. Però il primo modello è esattamente come dice lei, mi piace. Le ultime inchieste che cosa hanno fatto emergere? Le ultime inchieste sono state ovviamente per lo più legate a vicende di 'Ndrangheta, vicende relative alla criminalità organizzata. Sa che gli aspetti sono numerosi, soprattutto con riferimento a coinvolgimenti anche spesso torbidi. Stiamo occupandoci anche ad ampio spettro di tutta la questione della balneabilità, ad esempio, che è un qualcosa di molto interessante, perché la Calabria ha 800 km di coste, e di ambiguo, perché non è così facile discernere tecnicamente le analisi cliniche relative proprio batteriologiche relative alle acque. E poi un'altra cosa molto importante è tutta l'inchiesta sulla tematica relativa alla costruenda centrale a carbone di Saline, che sta un po' spaccando il territorio e rispetto alla quale noi cerchiamo di far di tutto per vederci più chiaro, per offrire ai nostri lettori degli strumenti affinché possano farsi un'idea e decidere se esserne a favore o contro. Avete mai ricevuto minacce per le vostre inchieste? No, minacce noi no, tuttavia è noto che uno dei nostri giornalisti un paio di anni fa, Antonino Monteleone, tra altre cose anche noto blogger, sì, oggi impegnato su testate a livello nazionale, ne siamo orgogliosi, fu vittima di un episodio veramente intimidatorio, venne incendiata la macchina sotto casa, poi peraltro sulla vicenda fu fatta piena luce dalla magistratura, sono stati anche arrestati responsabili. Tuttavia chi fa il giornalista alle nostre parti sa perfettamente che c'è un limite oltre il quale bisogna tenere in considerazione che possa accadere qualcosa. Ma come è organizzata la società civile che lotta contro le mafie e contro la corruzione in Calabria? Si può ancora parlare di una nuova stagione di ribellione? Ancora giusva branca. Questo è un percorso molto lungo. La Calabria è molto indietro rispetto a quanto già fatto vedere dalla Sicilia e a Palermo. Però qualcosa sta cambiando, lo diceva anche il procuratore Pignatone, che ben inteso sarà ospite della nostra serata di apertura giorno 7. Qualcosa sta cambiando. Forse non è evidentemente tangibile, però ci sono tantissimi segnali di risveglio di piccoli gruppi, magari non si aspetti le folle oceaniche, ma i 100 di qua, i 50 di là, i 200 dall'altra parte. Le garantisco che in un territorio dove fino a poco tempo fa il niente più assoluto era il massimo che ci si potesse aspettare sotto l'aspetto della reazione, è già tanto. Diciamo che sono germogli, ecco. Ma ci sono le condizioni per i giornalisti per fare inchieste contro la 'Ndrangheta? A due condizioni. Il primo è una condizione personale, che il giornalista accetti di fare questo mestiere e di mettere in conto che potrebbe non avere soltanto delle rose recapitate a casa. Il secondo è far sì che la società civile, alla quale il giornalista scrive, che comunque, per quanto silenziosa è, viva Dio, la stragrande maggioranza, in qualche maniera non lo lasci solo. La storia della mafia a Palermo ce l'ho insegnato: nel momento in cui un giornalista, ma vale anche soprattutto per i magistrati, un poliziotto è solo, viene facilmente aggredito anche fisicamente. Se dietro di lui c'è un movimento, allora il discorso cambia. Tra coloro che combattono l'Ndrangheta e l'Ndrangheta stessa, quante gradazioni ci sono? Cioè, ci sono persone che, pur senza fare parte appunto del sistema, comunque diciamo sguazzano nel sistema? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'Ndrangheta c'è a chi piace e c'è a chi non dispiace. È un sistema nel quale sguazzano in tanti, soprattutto quanto più alto è il livello economico di riferimento. Italia in controluce, la seconda edizione. Torniamo domani mattina con una nostra intervista ad Ascanio Celestini, che presenta il nuovo spettacolo chiamato In fila indiana, domani 6:30, Radio 24.